Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di banche, delle banche in generale, con il presidente dell'ABI Patuelli, e del rapporto, chiaramente, dell'invito che ha fatto il governatore della Banca d'Italia 3 giorni fa, Ignazio Visco, quando ha detto le banche comprino meno BTP e finanziano di più famiglie e imprese, commentando anche dati di un ulteriore calo, contrazione dei finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Ma parleremo anche di singola banca, e mi riferisco in questo caso a Monte dei Paschi. Ci raggiungerà infatti l'amministratore legato al Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola, dopo che oggi sul Corriere della Sera il numero uno di AXA è il colosso assicurativo francese, ma soprattutto è il terzo azionista del Monte dei Paschi di Siena, al 3,7%. Ebbene, Henri de Castries ha detto: noi parteciperemo all'aumento di capitale, e questa è obiettivamente un'ottima notizia per il Monte dei Paschi, nel senso che avere il terzo azionista, che è appunto il primo della fondazione, ma che partecipa all'aumento di capitale, vuol dire iniziare a mettere in cascina un'adesione importante. Il Monte dei Paschi deve trovare entro il 2014 2,5 miliardi di euro, pari praticamente a tutto il capitale, alla capitalizzazione che ha adesso, perché questo chiede l'Europa, se vuole appunto godere dei 4 miliardi di prestito, i cosiddetti Monti Bond. Il titolo come va oggi è in flessione dell'1%, ma chi invece va molto bene sono altri titoli, mi riferisco al mercato, non necessariamente bancari. Mediaset più 5,30%, Mediolanum più 3,30%, Mediobanca più 3%, ma poi c'è anche Finmeccanica più 2,70% e Telecom Italia più 2,60%, con Estimac Electronics che invece guadagna 2,5% come Buzzi Unicem. Parleremo quindi del Monte dei Paschi di Siena con Viola, del sistema bancario e anche dell'allarme lanciato dal Monte dei Paschi di Siena, dal Financial Times, sulle banche italiane. Ha detto che le sofferenze sono più alte di quanto non risulti, gli accantonamenti non bastano, le banche italiane potrebbero soffrire molto, e anche di questo parleremo. In apertura le notizie in breve e la vicenda, io l'ho definita una telenovela all'Italia, ma noi vi aggiorniamo di giorno in giorno come tutte le telenovelas. E come sempre la borsa, facevo notare i rialzi di Milano guadagna l'1,20%, non è la migliore oggi in Europa, perché Parigi guadagna il 2%, l'America, il Francoforte l'1,88%, l'America l'1,30%. Che cosa sta muovendo in maniera positiva le borse europee? Beh, l'idea, e anche Wall Street la conferma, che forse in America si possa arrivare a un accordo prima del 17 di ottobre sul cosiddetto shutdown, cioè quello che sta bloccando, paralizzando buona parte dell'amministrazione pubblica americana. Il mancato accordo sul budget, sulla legge di bilancio americana, in automatico blocca gli uffici federali americani. Il danno è stimato in $300 milioni al giorno, ma se non si riesce a trovare un accordo entro il 17 ottobre, a quel punto tecnicamente l'America passa in default, perché si è raggiunto il tetto sul debito consentito. Ecco, l'idea che Barack Obama potrebbe arrivare a un accordo con il Congresso sullo shutdown sta facendo avere a tutte le borse, devo dire, non solo quelle europee, reazioni positive. Ancora, per quello che riguarda l'euro, volete sapere se si è rafforzato? No, è sempre su livelli relativamente forti, a 1,35,36 nei confronti del dollaro. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Di banche ha parlato oggi anche il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che ha ricordato, lo ha fatto negli Stati Uniti, a Harvard, come l'Unione Bancaria Europea possa giocare un importante ruolo nel rompere il circolo vizioso che c'è in Europa tra banche e debiti sovrani. E poi ha continuato sull'euro, con buona pace di chi continua con questa cosa da esorcista sull'uscita dell'Italia dall'euro. Ha detto: sbagliava chi credeva che l'euro sarebbe fallito, l'euro è irreversibile. Chi credeva che sarebbe fallito durante la crisi si sbagliava. È irreversibile perché nato dall'impegno dei paesi europei verso una più stretta integrazione. E poi sui tassi di interesse, Draghi ha detto i tassi resteranno ai livelli attuali o addirittura inferiori. Ancora lungo tempo, c'è un'economia europea che ha una generalizzata debolezza e quindi i tassi resteranno ai livelli attuali o anche più bassi. Ancora per quello che riguarda le banche, per la prima volta la Banca Centrale Europea ha aperto una linea di swap con la Banca Popolare Cinese. Praticamente le due banche centrali potranno acquistare e rivendere una dall'altra le rispettive valute, perché lo ha spiegato la Banca Centrale Europea, che ha riconosciuto il ruolo di rapida crescita del yuan, della moneta cinese, nel contesto finanziario internazionale. La BCE in questo modo potrà accedere a 350 miliardi di yuan e la banca cinese a 45 miliardi di euro nei prossimi tre anni. In realtà è appunto la possibilità di comprare per la BCE valuta cinese e per la banca centrale giapponese euro. Ancora pervenendo all'Italia, invece, adesso parlo anche della manovrina, mi sembra che abbiamo già sufficientemente detto ieri, comunque un commento lo facciamo. In realtà la buona notizia oggi è che lo spread italiano è tornato ad essere almeno uguale a quello spagnolo. Ricorderete che durante il rischio nei giorni della crisi di governo, perché c'è stata una crisi di governo, ma del rischio che venisse meno il governo, noi avevamo superato la Spagna quanto a rischiosità percepita dai mercati, senza motivo, lo dico spessissimo, siamo il secondo paese come esportazione in Europa, non abbiamo mai avuto la bolla immobiliare che ha la Spagna, abbiamo una struttura di impresa decisamente più forte, pagavamo l'incertezza politica che invece la Spagna non ha. Adesso siamo tornati almeno allo stesso spread spagnolo. Infatti il nostro, il BTP a 10 anni e il bonus a 10 anni sono praticamente identici rispetto, come differenza sul Bund tedesco a 10 anni, 249 punti è lo spread. Allora, la manovrina, sicuramente non mi piace da un lato il fatto che siano saltate le risorse per la cassa integrazione in deroga, perché è una cosa molto importante in alcune regioni, vuol dire che non ci sono le risorse per la cassa integrazione in deroga che esce dai meccanismi tradizionali della cassa integrazione, per cui va bene, non c'è stato l'aumento delle tasse sulla benzina, i tagli, il miliardo e 600 milioni che vale lo 0,1% del PIL, quindi porterà il deficit dal 3,1% al 3%. Il miliardo e 600 milioni di euro arriveranno da tagli ai ministeri e trasferimenti agli enti locali, 1,1 miliardi, e vendita di immobili del demanio dello Stato alla Cassa Depositi e Prestiti. Arrivano i soldi invece per il fondo immigrazione per i minori stranieri, ripeto, sono saltati i 330 milioni di euro per rifinanziare la cassa integrazione. E questa mattina da Como, a margine dell'assemblea degli industriali, il presidente Confindustria Squinzi ha detto che dopo l'incontro avuto martedì con il premier Letta, Letta gli ha fatto capire che non ci sono le risorse per fare 10 miliardi di euro di taglio del cuneo fiscale e quindi che, se tutto va bene, verranno confermati i 4 miliardi. Probabilmente la buona notizia in questo panorama di notizie spesso negative è che quest'anno il PIL italiano farà meno 1,6 invece che meno 1,8%. Sono, mi rendo conto, non sono elementi che ti permettono di festeggiare, anzi è una misera consolazione, però tant'è. Ancora, va bene, vedo alcuni messaggi. Stia sereno Barisoni, si mette il cuore in pace, prima o poi con le buone o con le cattive noi usciremo dall'euro. Sì, va bene, però spiegateci prima cosa succede. Vorrei sapere a quanto vanno i nostri mutui, per esempio, no? Siccome il mutuo viene calcolato sul tasso di interesse, e siccome il tasso di interesse in questo momento non è italiano, è quello della Banca Centrale Europea, allora io so un mutuo al 5%, tasso variabile, esco dall'euro. A questo punto vogliamo dire che anche il nostro tasso di interesse vada al 7-8%. Allora spieghiamo agli italiani che il mutuo non sarà più al 5-6%, ma sarà al 12-14% come costo. Vediamo se raccogliete tutto questo consenso. Spieghiamo agli italiani dove andrà il prezzo della benzina, di tutti i generi che si muovono su camion. E va bene, tutto per uscire dall'euro. Va bene. Ma vedo che c'è gente che ha delle sicurezze che a me mancano. Usciremo dall'euro con le buone o con le cattive? Con le cattive come si fa? Boh. Il Centro dello Studio Confindustria stima invece un incremento della produzione industriale dello 0,4% a settembre rispetto ad agosto, ma fa anche notare che a settembre la differenza tra quanto era la nostra produzione industriale e quella che è adesso è ancora del 25%, cioè dall'aprile del 2008 al settembre del 2013 mancano all'appello ancora un quarto della produzione industriale del nostro paese. Ancora per quello, tra le varie conseguenze della crisi economica, lo scopriamo oggi grazie al rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione, c'è anche l'addio all'Italia di molti migranti. So che con le notizie tragiche di Lampedusa può sembrare quasi una contraddizione, ma in realtà se ne sono andati in 32.000 o sono tornati in patria o sono andati in altri paesi europei, e questo ha avuto conseguenze però anche per lo Stato, perché questi 32.000 erano tutti quanti regolari, chiaramente hanno privato le casse dello Stato di 86 milioni di euro di IRPEF. Vedo anche molti messaggi sul Monte dei Paschi. Adesso ne parleremo con l'amministratore delegato del Monte dei Paschi Viola. Prima di tutto però vorrei fare l'aggiornamento quotidiano, dacci la nostra l'Italia quotidiana, perché qua non si sta risolvendo nulla, e quindi vediamo di capire a che punto va la telenovela di Alitalia. Allora, sempre aleggia sull'Italia lo spettro del default, del fallimento. Lo scenario è quello riferito ieri dai sindacati dopo l'incontro con l'amministratore delegato di Alitalia, Gabriele Del Torchio, il quale ha anche confermato che si sta lavorando a una manovra da 500 milioni, di cui 300 milioni di aumento di capitale e 200 milioni di linee di credito. Quindi gli azionisti dovrebbero metterci più soldi, pari a 300 milioni in più, questo è l'aumento di capitale. E le banche o fintech, non lo so, qualcun altro dovrebbe prestare 200 milioni di euro come credito. Dicevo fintech perché il governo continua a lavorare all'ipotesi di un socio pubblico, prende quota l'ipotesi fintech, ma anche le ferrovie restano in pista. Ieri incontro, diciamo, pseudo segreto, diciamo così, di Mauro Moretti con i vertici dell'Italia con il governo. Ripeto, tra i possibili interventi del governo potrebbe anche esserci l'emissione di obbligazioni convertibili, ossia lo Stato le metterebbe senza collarsi il debito pregresso, ma sarebbero convertibili in azioni. Allora, Gianni Dragoni, pronto Gianni? Buonasera, ciao. Eccoci. Insomma, questa è la situazione allo stato dell'arte. Ho visto che oggi i vertici di Alitalia hanno incontrato anche Vito Riggio, il mitico Vito Riggio. Da quant'è che c'è Vito Riggio all'ENAC? Boh, comunque, presidente dell'ENAC ha detto all'Italia... 12-13 anni. 13 anni, va bene, della serie famoso di cambio generazionale. Comunque, no, non ce l'ho con Riggio, perché semplicemente magari si può anche ricambiare alcune cariche. Comunque, restiamo su Alitalia. Riggio ha detto che l'Italia dovrà continuare a garantire il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza, e vorrei anche vedere, e non ci sono però sintomi che la compagnia si possa fermare. La situazione è difficile, ma non vi sono sintomi che la compagnia si fermi. E poi il vice direttore generale di Alitalia, Giancarlo Schisano, ha detto beh, era un po' esagerato l'allarme di Scaroni sul, l'amministratore delegato dell'ENI, sul rischio esaurimento carburante da sabato per Alitalia. E poi varie dichiarazioni dei sindacati e anche del ministro Maurizio Lupi. Gianni, a che punto siamo? Allora, prima notizia, gli aerei volano ancora, e quindi in effetti non c'è quell'allarme magari tra i clienti eccetera, però la soluzione, la ricerca di una soluzione ancora è in corso, e infatti è stato rimandato domani il consiglio di amministrazione dell'Alitalia, che oggi pomeriggio doveva cominciare a quest'ora, avrebbe dovuto un po' tirare le fila di questi incontri con il governo e le banche di questi giorni per dare, appunto, formalizzare quella manovra dei 500 milioni che ieri l'amministratore delegato del TOR, hai ricordato, ha detto ai sindacati. Allora si sta ragionando sempre che 300 milioni dovrebbe essere un aumento di capitale, la metà di questa somma, secondo le richieste delle banche e degli azionisti, la dovrebbe garantire lo Stato, però ancora non è stato individuato quale società e quale forma. Ci potrebbe essere una formula mista, in parte intervento con garanzie o garanzie sui debiti o bond, potrebbero essere i letta bond dopo quelli visti sulle banche, no? Dopo i tremonti e i monti bond, una cosa simile, non è chiaro, o una società pubblica. Nelle ultime ore si è parlato anche di un'ipotesi che siano addirittura le Poste, udite udite, non si capisce cosa c'entrano col trasporto aereo, ma forse è alla ricerca letta di una società che abbia della cassa disponibile. E quindi domani, se questo tutto andasse a posto, potrebbe essere annunciata un aumento di capitale che poi l'assemblea lunedì dovrebbe deliberare, e con un immediato anche finanziamento delle banche, perché i soldi stanno finendo veramente. Quindi forse quando Schisano dice... Ecco, però facciamola capire tutta, cioè, se ho ben capito, il governo vuole, diciamo, fare questo aumento di capitale in un modo o nell'altro, riuscire a farlo in modo da rafforzare la posizione finanziaria dell'Italia, per poi andare a trattare con i francesi non in ginocchio con le braghe calate. Questa potrebbe essere la fase successiva. La prima cosa adesso è certamente far sopravvivere la compagnia. C'è chi si chiede, molti credo si chiedano, ma perché allora, se con i francesi c'è da andare nella fase successiva, perché non farlo subito? Come hai detto tu, in questa fase chiaramente l'azienda sarebbe in pochi giorni, senza mettere nuovi soldi, sarebbe insolvente, sarebbe fallita, quindi dovrebbe essere commissariata, e quindi i francesi potrebbero poi prenderla. Si parla anche che i francesi abbiano detto, se la dobbiamo prendere oggi taglieremmo metà della flotta, gira anche questa voce. Può essere una posizione in una trattativa. I francesi hanno posto il problema del debito pregresso, che supera il miliardo di euro, quindi adesso si ragiona sulla fase su come dare la sopravvivenza. Il governo non ha ancora detto, non ha ancora individuato la società pubblica che potrebbe investire. Sembra addirittura che le Ferrovie potrebbero intervenire non come socio, ma come autore di un piano industriale integrazione ferrovia aereo, che peraltro, diciamo, noi pensiamo alla tratta ad alta velocità, ma non ci sono casi nel mondo di integrazione societaria di questo tipo. Quindi ci sono ancora dei dubbi, però stanno andando avanti per trovare una soluzione che credo inevitabilmente ormai passerà, se sarà approvata, con un nuovo intervento pubblico, un'iniezione di denaro pubblico, appunto, fino a 150 milioni di euro. Quindi questa è l'ipotesi, staremo a vedere quello che sarà poi il ruolo del pubblico, che a me preoccupa tantissimo, fermo restando che non è sbagliato, lo dico a chi scrive, che il governo immagini di un'Alitalia un po' più robusta come liquidità per poter trattare con i francesi, magari vedere se c'è qualche altra opzione che si apre. Non è sbagliata come strategia. Non vorrei che i soldi fossero pubblici, o se sono pubblici, che si trattasse di un vero prestito, non di un convertendo che poi viene convertito e noi ci ritroviamo di nuovo azionisti di Alitalia. Grazie intanto a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Sì, vedo molti messaggi sull'Italia, non possiamo commentarli tutti. Vedo anche molti messaggi su questa cosa dell'euro, però basta. Allora, lo dico sperando che sia l'ultima volta. Un conto è stare dentro l'Europa, dentro l'euro e criticare la gestione che è stata fatta in questi anni dai tedeschi, dai paesi del nord, delle politiche economiche europee, tutte ragionieristiche, tutte sull'austerità e non sulla crescita. Ma tu conti qualcosa? Se stai dentro, se esci, non conti più nulla. Ecco perché è una follia anche dal punto di vista della politica estera uscire dall'euro. Perché una volta che sei fuori, sei fuori. Stai dentro, tirano fuori, diciamo, gli attributi, i nostri governanti, come non hanno fatto fino adesso a Bruxelles, impongano anche un'Europa fatta per la crescita, che venga levato dal conteggio del deficit, la spesa per investimenti in infrastrutture tecnologiche o diciamo, di reti, non importa. Che ci sia un'altra Europa, ma uscire significa semplicemente lasciare l'orso in casa tua e abbandonare la casa, non ha nessun senso. Diciassette e 38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. E come dicevo, oggi una buona notizia per il Monte dei Paschi è quanto ha dichiarato il numero uno del colosso assicurativo francese AXA, lui si chiama Henri de Castries, che ha detto noi parteciperemo all'aumento di capitale, quello di 2 miliardi e mezzo che Monte dei Paschi deve trovare come soldi entro il 2014. Ci ha raggiunto in collegamento, lo ringrazio, l'amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola, buonasera. Buonasera. Beh, contento, no? I francesi parteciperanno all'aumento di capitale. AXA lo ha detto, lo ricordavo prima, AXA ha il 3,7% del Monte dei Paschi e il numero uno in un'intervista oggi su Corriere della Sera ha detto noi siamo della partita. Vi salvano i francesi? Che è un po' eccessivo, ma sicuramente il fatto che AXA abbia oggi dichiarato che parteciperà all'aumento di capitale è un'ottima notizia che credo confermi che quello che stiamo facendo per il piano di risanamento e rilancio della banca va nella giusta direzione. Ecco, quale sarà la prossima buona notizia sull'aumento di capitale? Cioè, quale, diciamo, altro socio forte vorrebbe sentire dire quello che ha detto ieri AXA? Ma lasciamo che i soci di una certa dimensione valutino con calma il da farsi. C'è tempo e credo che sia importante adesso, dopo la presentazione del piano, avere l'approvazione da parte della Commissione europea e creare le condizioni per la sua realizzazione che passa attraverso la continuazione di quello che stiamo facendo da circa 18 mesi. Dopodiché, per quanto riguarda il futuro aumento di capitale, sarà importante capire le condizioni di mercato e soprattutto il grado di appetibilità del mercato degli investitori istituzionali verso l'investimento Monte dei Paschi. Ma dopo la notizia di AXA, lei è più convinto che ce la farete a trovare 2 miliardi e mezzo? Allora, la cifra dell'aumento di capitale è una cifra molto importante, soprattutto se la confrontiamo con la capitalizzazione di borsa. Però diciamo che una certa fiducia mi deriva dalla consapevolezza che il lavoro che si sta facendo all'interno della banca sta iniziando a portare dei risultati concreti e in secondo luogo da qualche mese a questa parte è ritornato a esserci un certo interesse da parte dei mercati internazionali verso investimenti nell'Europa non core, ne sono la conferma il successo degli aumenti di capitale fatti dalle banche greche e da alcune banche spagnole. Ecco, però c'è chi dice che questa imposizione europea al Monte dei Paschi, 2 miliardi e mezzo di aumento di capitale pari a tutta la vostra capitalizzazione, sia stata frutto anche di un errore governativo. Cioè, se noi avessimo chiesto aiuti all'Europa a suo tempo, invece che pensare di farcela da soli con i Monti Bond, l'Europa non ci avrebbe poi imposto, diciamo, questo aumento di capitale. Ma io credo che è difficile rispondere a questa domanda. Quello che posso dire è che da parte della banca c'è l'interesse a rimborsare, come abbiamo esplicitato nel precedente piano industriale, nei tempi più rapidi possibili, il nuovo strumento finanziario, che comunque ha un elevato livello di onerosità. Dopodiché, se guardo quello che è successo nel resto dell'Europa, noto che soprattutto negli ultimi tempi, nell'ultimo anno e mezzo, i criteri che sono stati utilizzati dalla Commissione europea nel valutare gli aiuti di Stato sono stati criteri sempre più rigorosi e più restrittivi. Però qualche banca tedesca è riuscita a essere aiutata dal governo tedesco senza fare l'aumento di capitale, o no? Sì, ci sono stati casi, però se non ricordo male sono casi che sono collocati nella fase iniziale della crisi. Non bisogna dimenticare che nel corso del tempo c'è stata un'evoluzione in Europa nell'approccio agli aiuti di Stato che è scaturito poi nell'ultimo orientamento, che oggi non è ancora applicabile, che praticamente introduce un concetto di bail-in, ovvero di sacrificio a carico di tutti gli stakeholder in luogo del bailout, che era il criterio utilizzato nella prima fase della crisi, dove l'onere del risanamento delle banche era pressoché totalmente a carico dei governi. Sì, diciamo il dopo Cipro, se vogliamo dare una data, forse una data simbolica, per cui l'Unione Europea ha deciso che nel caso una banca abbia problemi, chi ne paga, adesso traduco in maniera un po' grossolana, in primo luogo le conseguenze sono gli azionisti, oltre che i correntisti della banca stessa, non lo Stato e la collettività. Diciamo in via residua lo Stato. In via residua, ecco, certo. Ci tengo a sottolineare che il trattamento imposto al Monte dei Paschi è collocato ancora nella precedente normativa, quindi non si applica al Monte dei Paschi la nuova normativa post-Cipro. E questo è importante per gli azionisti correntisti e gli obbligazionisti del Monte dei Paschi. Mi dico una cosa, ci sono anche i dipendenti del Monte dei Paschi, perché voi avete su 30.000 dipendenti, avete annunciato un aumento dei licenziamenti, della riduzione dell'organico per un totale di 8.000 dipendenti, 2.007 sono già usciti. Insomma, poi però lei, ho visto una dichiarazione oggi che dice ce la faremo senza licenziamenti, allora non capisco più, sono solo prepensionamenti? Allora, glielo confermo, noi avevamo un originario obiettivo di 4.600 dipendenti da ridurre nel precedente piano, il nuovo piano di ristrutturazione ne prevede 8.000, noi ne abbiamo ridotti fino adesso di 2.700, dovrebbero arrivare a circa 4.000 alla fine di quest'anno se si perfezionerà l'operazione di outsourcing a cui stiamo lavorando. Ce ne sono altri 4.000 che pensiamo di fare attraverso cessioni di società, attraverso il turnover naturale, quindi le uscite naturali, attraverso poco meno di 3.000 prepensionamenti attraverso l'utilizzo del fondo di solidarietà, che come si sa è uno strumento che deve essere negoziato con le organizzazioni sindacali e che peraltro noi abbiamo già utilizzato alla fine dell'anno scorso con un accordo sindacale che ci ha consentito di ridurre di circa 1.700 dipendenti il numero totale. Quindi diciamo che questo nuovo piano di ristrutturazione certamente introduce un rafforzamento delle misure di riduzione dei costi, non solo delle spese amministrative ma anche del personale, ma non introduce al momento nessun tipo di strumento diverso, e quindi confermo la mia affermazione che non sono previsti licenziamenti. Ecco, ridurrete però gli sportelli di 550, erano 400 inizialmente, ora 550. Ma insomma, non è un po' strano che Monte dei Paschi nel 2008 rileva la Banca Antonveneta, a parte che l'ha pagata una cifra che è oggetto anche dell'inchiesta della magistratura, e mi riferisco ai 10 miliardi pagati a fronte di un valore patrimoniale di Antonveneta al tempo di 2 miliardi e 3, e con una plusvalenza per gli spagnoli di Santander di 2 miliardi. Ma voi, il Monte dei Paschi, allora lei non c'era, acquisì anche 1000 filiali, adesso ne tagliate 550. Qual è la soglia critica, la massa critica per non andare, diciamo, a fare un'operazione in qualche modo controproducente? Guardi, la riduzione degli sportelli è un fenomeno in atto in Europa ormai da diversi anni. L'Italia ha iniziato ad adeguarsi in questa tendenza con grande ritardo, ma è una tendenza ormai consolidata. Questo soprattutto in relazione al fatto che stanno cambiando profondamente i comportamenti dei clienti, dei consumatori, che tendono a utilizzare molto più frequentemente i canali telematici e a venire meno nella filiale fisica. Quindi è una tendenza di sistema a cui le banche italiane si dovranno uniformare per ridurre la base di costi operativi e quindi migliorare l'efficienza operativa. Il Monte dei Paschi ha già avviato questo cammino col vecchio piano, erano previste la chiusura di 400 filiali in 3 anni, sono state realizzate in 1 anno e mezzo, quindi di fatto le 150 ulteriori, sì, diciamo, sì, anche queste sì, sono in linea di continuità con quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno e mezzo. Dopodiché il confronto con quello che abbiamo fatto nel 2008, francamente però dottor Viola, possiamo dire che, insomma, l'inizio del disastro fu quell'operazione, da quello che lei poi ha capito, lei non c'era. Ma diciamo che quell'operazione lì è stata certamente un'operazione che ha messo in serie difficoltà la struttura patrimoniale finanziaria della banca, perché oltre il prezzo è stata pagata, il Monte Paschi si è dovuto accollare una differenza, un debito che finanziava la differenza tra la raccolta e gli impieghi molto molto consistente. Questo ormai è un fatto di neanche di cronaca, ma di storia. Ecco, mi dica un'ultima cosa per concludere. Lei adesso quando cammina per Siena va tutto bene? Ma direi di sì, fino adesso non ho avuto problemi. E quindi anche il rapporto con la fondazione? Il rapporto con la fondazione è molto buono, tra l'altro la fondazione ha cambiato i suoi organi recentemente, quindi stiamo avviando un rapporto di collaborazione che mi auguro sarà proficuo come è stato con i precedenti esponenti. Ma secondo lei, visto che non è senese, i senesi hanno capito che, insomma, un errore fu anche avere una fondazione troppo potente, troppo legata alla senesità della banca, oppure è rimasto la Marcord per quando il Monte Paschi di Siena era tutto senese? Ma guarda, io credo che quello che è successo negli ultimi anni ha una portata tale per cui credo che sia necessario un po' di tempo per i cittadini per capire esattamente quello che è successo, come è successo e perché è successo. Quindi credo che ci vorrà ancora un po' di tempo, perché a noi tecnici risulta tutto abbastanza chiaro, ma poi evidentemente bisogna che questa cosa venga interiorizzata da tutti. Io credo che il processo è in atto, ma ci vorrà un pochettino di tempo. Quindi ancora, diciamo, la senesità della banca resta per i senesi un elemento importante? Ma cioè, credo di sì. D'altro canto, oggi ci sono circa più di 3.000 dipendenti che hanno la residenza a Siena e provincia, e vista la dimensione della città è certamente una parte importante della popolazione. Questo è il motivo per cui in più di un'occasione ho avuto modo di dire che l'obiettivo numero uno è risanare la banca, ma fare di tutto perché la banca resti un'azienda con sede a Siena. Senta, lo Stato nazionalizzerà il Monte dei Paschi o riuscirete a ridare i Monti Bond a fine 2014? Faremo di tutto, lavoreremo in modo molto intenso per evitare questa situazione. In bocca al lupo, glielo auguro di cuore, appunto, perché grazie. Nessuno ha interesse a vedere lo Stato, cioè noi, diventare azionisti del Monte dei Paschi, con massimo rispetto abbiamo già dato come paese con le banche di interesse nazionale. Grazie al ministro delegato del Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola. Grazie, buonasera a tutti. E va bene, vedo anche molti messaggi a chi critico con Viola, a chi con i senesi, chi con la dichiarazione del fatto che le banche si possono chiudere gli sportelli perché le banche diventano sempre più telematiche. Il resto della borsa, positiva Milano come tutte le borse europee che sperano in un accordo della Casa Bianca con il Congresso per evitare dopo lo shutdown il default, quindi un peggioramento della crisi con ripercussioni pesantissime su tutto il resto del mondo, Europa inclusa. La borsa oggi la faccio io, Parigi più 2,21%, Francoforte più 2%, l'America 1,5%, Londra più 1,46%, Milano assolutamente in linea con un rialzo di 1,5%. Tra i titoli, Mediaset aggiorna nuovi massimi a 3,46€ più 5%, Mediolanum bene i bancari perché lo spread è tornato ai livelli di quello spagnolo, comunque sotto i 250 punti, bene ma non benissimo, nel senso che se Fondiaria 6 guadagna 3,15%, Mediolanum il 3,60%, Mediobanca il 3%, Generali il 2,40%, Unicredit più 2,30%, Intesa San Paolo più 2,20%, il Banco Popolare invece si accontenta dell'1% di rialzo, la Popolare Emilia Romagna dello 0,60%, Ubibanca è in negativo meno 0,13% e il Monte dei Paschi meno 1,5%. Gli altri titoli dopo il GR, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, concludiamo l'approfondimento di borsa, migliori e peggiori, Safilo meno 4,81% e Arena meno 3,40%, invece bene è andato oggi P-Quadro più 19,28%, molto bene, dopo la presentazione dei dati sui ricavi del primo trimestre. Ancora tra i titoli, bene la Roma Calcio più 22%, Banca Carige più 12%, in attesa anche sulla nomina del nuovo amministratore delegato, e dopo diciamo, i problemi che c'erano stati e l'ingresso di nuovi soci. Volete sapere di Fondiaria Sai? Beh, Fondiaria Sai si è mossa, ha guadagnato il 3,15%, anche perché ha ceduto la quota di Mediobanca e ha incassato circa 130 milioni di euro. Avevo promesso che avremmo continuato a parlare di banche, non del Monte dei Paschi e basta, ma di banche, e allora vediamo, torniamo a occuparci proprio del mondo bancario italiano. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. E il nostro sogno di oggi è un sogno, ahimè, che temo dovrà essere ricorrente. Il sogno è non avere più il governatore della Banca d'Italia che invita le banche italiane. L'ha fatto il governatore Ignazio Visco lo scorso 7 ottobre a concedere più prestiti alle famiglie, alle imprese, a comprare meno BTP. E non dover più commentare, come è accaduto invece il giorno dopo, l'8 ottobre, ancora un dato che vede un aumento del calo dei prestiti bancari, meno 3,5% complessivamente contro un 3,3% di luglio, ma i finanziamenti alle imprese hanno fatto meno 4,6%. Anche perché la stessa Banca d'Italia dice che i depositi bancari si rafforzano più 6,6% dopo una leggera limatura di luglio. Però siccome i sogni, bello cercare anche di concretizzarli ogni tanto, ringrazio il presidente delle banche italiane, dell'ABI, chiaramente che è l'associazione che riunisce tutti gli istituti di credito bancari, Antonio Patuelli, per averci raggiunto in studio. Buonasera a lei e a tutti. Oggi è la giornata delle banche, perché prima Viola, sul caso Monte dei Paschi, ci mancherebbe, invece con lei ragioniamo del sistema. Allora, non lo diciamo noi, lo dice il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che ai suoi, diciamo, associati, senza entrare nei casi specifici, ha ricordato che adesso il ritorno della fiducia degli investitori, cito testualmente, l'equilibrio dei conti pubblici e le riforme eviteranno tensioni sul mercato dei titoli di Stato, consentendo una riduzione dell'esposizione di banche italiane nei BTP, affinché aumentino invece il sostegno a famiglie e imprese. Penso sia già iniziato, perché i BTP hanno dei forti rischi nella pancia di minusvalenze, soprattutto con lo spread così elevato come è da oltre 2 anni. E di conseguenza non penso che il mercato di titoli così a lungo sia molto appetito dalle banche. Che iniziano già comprando meno BTP. Le banche hanno semmai dei doveri di legge e di necessità di avere della liquidità pronta, e la liquidità pronta è titoli di Stato, ma quelli che vengono comprati non sono BTP, sono dei BTP, dei buoni del tesoro normalmente corti, a breve, un anno e mezzo, quindi non per investimento, con durata breve, con redditività bassa, ma come riserva di liquidità per le norme di legge e per i clienti. Senta Presidente, però anche il dato diffuso dalla Banca d'Italia appunto l'altro ieri, calano i prestiti a famiglie e imprese, calano di più quelli alle imprese, meno 4,6%, calano anche di più rispetto a luglio quando fu del 4,1% il calo. Dico a lei e agli ascoltatori una cosa che non ho mai raccontato, ovvero sia... noi, se facciamo il confronto mese per mese, siamo miopi. Allora, guardiamo che cosa è successo negli anni. Mi ha messo su questa linea Moira Longo ieri sul Sole 24 Ore, dove scriveva, cito testualmente, che dal 2000 al 2012 il credito alle aziende è raddoppiato. Allora, sono andato a vedere in questi ultimi 20 anni quali sono i dati complessivi del credito bancario. Nel 1992 gli impieghi erano di 584 miliardi di euro. Poi abbiamo avuto una crescita e 10 anni dopo erano diventati 1.036 miliardi di euro, quasi raddoppiati. I 1.036 del 2002 sono diventati 1.099 del 2003, sono cresciuti ancora nel 2004 a 1.160, sono cresciuti nel 2005 a 1.250, sono cresciuti nel 2006 a 1.384, sono cresciuti nel 2007 a 1.517, sono cresciuti nel 2008 a 1.592, sono cresciuti ancora nel 2009 a 1.621, sono cresciuti ancora nel 2010 a 1.754, sono cresciuti nel 2011 a 1.784 e tuttora siamo sopra i 1.700. Quindi, amici miei, siamo tuttora in questi anni ai massimi storici, siamo quasi al quadruplo di 20 anni fa e siamo quasi al doppio di 2 anni fa. Lo stock è enorme dei prestiti erogati dalle banche, e quello che le banche erogano a imprese e famiglie supera la raccolta complessiva che le banche effettuano dai risparmiatori, con una aggiunta: che la raccolta sta aumentando a breve, sostanzialmente in depositi a conto corrente a vista, che uno può ritirare dal giorno alla notte, mentre da un anno e mezzo almeno stanno calando nelle forme, per esempio le obbligazioni a medio termine. Così le banche sono impegnate con grandi quantità, soprattutto di mutui che hanno durata anche di 20-25 anni, che sono lì e immobilizzano una raccolta che ha durata molto più breve. Occorre quindi avere la completezza della visione e che gli italiani innanzitutto riprendano fiducia nell'Italia e non abbiano la preoccupazione di scappare via domani mattina dal deposito e portarsi a casa i contanti, e li depositino a medio-lungo, perché solamente con depositi a medio-lungo si possono fare più prestiti a medio-lungo. Allora, Presidente Patuelli, adesso io devo dare le informazioni sul traffico. No, è incredibile perché quando io la sento parlare a me viene voglia di fare una colletta per le banche. Stavo cercando anche il fazzoletto perché mi rendo conto che i dati che noi abbiamo fornito invece sono smentiti dal fatto che le banche hanno sempre più finanziato il sistema. Comunque adesso c'è il traffico, faccio notare che le riflessioni e le osservazioni erano di Mario Draghi e del Governatore Visco, poi torniamo però su questo perché ho capito la sua risposta ma non mi basta. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Strade in diretta. Spostamenti della sera attorno alle grandi città sono i lavori a causare i maggiori disagi. Siamo in auto sole, le code verso Roma tra Firenze Sud e Valdarno hanno raggiunto i 10 km. In prossimità del cantiere il traffico scorre su una sola corsia. In auto sole ci sono code per lavori anche in Emilia sulla carreggiata che da Milano porta a Bologna. Code per 6 km tra Fidenza e Parma e altri 3 km di coda tra Terra di Canosse e Reggio Emilia. Torniamo tra mezz'ora. Promo 24. I mercati finanziari si muovono ogni giorno. Per questo bisogna affidarsi ad un trading innovativo. Con i CFD di IG è possibile guadagnare operando al rialzo e al ribasso su migliaia di mercati, azioni, indici, valute e materie prime. Ogni giorno 140.000 trader usano la piattaforma di IG. Il trading sulle valute offre tante opportunità e con la piattaforma di IG si può operare al rialzo e al ribasso su oltre 80 coppie di valute a qualsiasi ora della giornata. Inoltre, con la nuova piattaforma MetaTrader di IG si ha l'accesso a centinaia di indicatori, segnali di trading e sistemi di trading automatico. Chiunque può trasformarsi in un vero trader con IG. Demo gratuita su igmarkets.com. Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. 18 e 18 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, con il presidente dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana, e quindi con lei, presidente Antonio Patuelli. Allora, a parte il fatto che alcuni ascoltatori giustamente fanno notare che le cifre che lei ha fornito a livello nominale però devono tenere conto dell'inflazione, ma mi scusi, io non metto in dubbio le cifre, però cioè, è stato il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi che ha detto che il trasferimento che la Banca Centrale ha fatto alle banche europee non è arrivato poi dalle banche europee, quindi anche quelle italiane, all'economia reale. È stato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco a dire che vanno aumentati i prestiti alle imprese, segno che non sono ancora sufficienti. Allora, c'è o non c'è questo problema? No, non sbaglia sicuramente Draghi né Visco, però dobbiamo capirci. Se il presidente della BCE è un italiano, quando parla non parla pensando esclusivamente agli italiani, ma parla a un contesto europeo che è di crisi. Quando parla il governatore della Banca d'Italia, lui sì che parla rivolto all'Italia. E che cosa auspica? Auspica la ripresa, e nella ripresa c'è anche la ripresa dei prestiti. Ma noi siamo totalmente d'accordo, ma le attività bancarie non sono una variabile indipendente, lo sottolineo con forza, sono connesse agli altri fattori produttivi e quindi possono e debbono essere sviluppate in continuità con queste premesse. Allora, immaginiamo una cosa, visto che abbiamo iniziato con un sogno. Allora, voi come banche comprate sempre meno BTP, a parte diciamo alcune attività fisiologiche, e tornate a prestare i soldi in maniera massiccia. Lei mi risponde: non abbiamo mai smesso, però insomma, è la verità, altrimenti diciamo, sarebbe crollato da 1700 rotti, sarebbe andato diciamo, a 1500. Andate 1000. Nel solco, nell'alveo che ha indicato il governatore della Banca d'Italia sull'Italia e il presidente Mario Draghi anche sull'Italia, ma in generale sull'Europa. Domanda: il nuovo, diciamo, un nuovo corso nel finanziamento dell'economia reale, in un corso del genere, secondo lei il capitalismo di relazione sarà ancora importante o conteranno solo progetti e piani industriali? Perché su questo, non voglio entrare in casi specifici, abbiamo visto che anche nel passato, ci sono tanti casi di mostrarlo, era più importante il salotto che frequentavi che non il piano industriale per avere un miliardo e tre, 800 milioni di linee di credito. Guardi, le regole di Basilea 2, tuttora vigenti, e quelle di Basilea 3 sono assolutamente precise. Ci sono dei criteri oggettivi e chi sbaglia poi paga, rimettendoci non solo soldi ma reputazione. Per quello che riguarda la ripresa dello sviluppo, non può essere scaricata esclusivamente sulle banche e sulle imprese, perché le banche e imprese sono due facce della stessa medaglia. Vanno bene le banche e le imprese o vanno male le imprese e le banche insieme? Bisogna che anche lo Stato italiano corregga talune distorsioni, anche macroscopiche, che gravano sulla catena dei rapporti fra banca e impresa. Per esempio, solo in Italia e solo per le banche operanti in Italia, tuttora sussistono delle normative che penalizzano l'erogazione di nuovi prestiti. Sono delle normative di carattere fiscale che fanno sì che se ora noi eroghiamo un nuovo prestito e questo nuovo prestito dopo un po' diventa una perdita, quella perdita grava immediatamente sul bilancio della banca, ma non viene a essere compensata fiscalmente con uguale immediatezza, ma viene addirittura spalmata su 18 anni. Questa norma scoraggia le banche a fare nuovi prestiti, scoraggia, e fin quando c'è questa norma è inutile e controproducente la polemica fra chi che sia imprese e chi che sia banche. Banche e imprese insieme debbono convergere su Parlamento e Governo per correggere questa anomalia che esiste solo in Italia, e giudico molto importante quello che sta avvenendo in particolare negli ultimi 10 giorni, dopo un fondo del direttore del Sole 24 Ore napoletano e la mia immediata risposta costruttiva, che il Sole 24 Ore ha fatto e sta sviluppando una inchiesta per confrontare questa anomalia italiana con le situazioni degli altri paesi, e si vede che questa è una anomalia, bisogna rimuoverla al più presto. Confido che nella legge di stabilità ci sia finalmente un provvedimento correttivo. Su questo siamo d'accordo, ne parlavamo già l'ultima volta che ci sentimo, perché obiettivamente se devi agevolare i prestiti non puoi, giustamente, in questo non c'è nessun dubbio, scaricarla su 18 anni. Mi dica un'ultima cosa, Presidente. Prego. Mattuelli, ma ieri il Financial Times è uscito con un... Io non è che lo prenda come la Bibbia, poi gli inglesi quando parlano di noi sono sempre un po' spocchiosi, però è uscito con una stima che dice: attenzione, le banche italiane hanno retto bene la crisi, ma le loro perdite potenziali sono maggiori che in Spagna e in Portogallo. E stimava in 125 miliardi le perdite complessive causate dai crediti inesigibili, quindi 53 miliardi in più rispetto agli accantonamenti. Lei si è ritrovato in quella descrizione? Cioè, è troppo allarmistica, è troppo scettica, o in realtà potrebbe essere realistica? Io non so il Financial Times dove l'abbia trovati questi dati. Io mi fido. Erano stime anche, no, lo dico per completezza, di Goldman Sachs. Ha detto le 6 principali banche italiane necessitano di 16 miliardi di capitali aggiuntivi, sarebbero Monte dei Paschi, UbiBanca, Popolare di Milano e Banco Popolare. Io ho grande rispetto per il lavoro dell'unico organismo competente a valutare queste cose, che è la Banca d'Italia. Che me lo dicesse l'unico giornale finanziario. E che non mi risulta dia ed esprima questi numeri. Per cui, diciamo, le sofferenze, gli accantonamenti. Le sofferenze sono importanti, ma sono gli accantonamenti grandissime. Ma il lavoro fatto su indicazione della Banca d'Italia negli ultimi anni, e in particolare negli ultimi mesi, è stato ingentissimo da parte delle banche e degli azionisti delle banche. È un lavoro che è infinito, perché ogni crisi aziendale, tuttora, anche con le speranze di ripresa, continuano a esserci, continuano a scaricare i loro effetti sulle banche, le quali ricapitalizzano tutti i giorni facendo accantonamenti. Di conseguenza c'è una grande regia della Banca d'Italia e un grande impegno delle banche italiane. Dare i numeri che riguardano altri non mi sembra che sia la cosa più saggia, soprattutto facendo parte della medesima Unione, quella europea. Mi dica un'ultima cosa, si dibatte molto da quando le banche hanno ridotto la quota in Telecom Italia delle banche di sistema. Adesso io vorrei sapere lei che cosa ne pensa, perché noi abbiamo già avuto le banche di interesse nazionale, però sia nella vicenda Telecom si è detto le banche sono uscite in maniera improvvida permettendo agli spagnoli poi di fare strali di Telecom Italia e di Team Brasil soprattutto, si citano molto le banche nella vicenda d'Italia. Allora, la banca di sistema, cioè quella che interviene sui dossier aperti critici del sistema Paese Italia, ha un senso o no? Ogni banca risponde ai propri azionisti. Gli azionisti delle banche in Italia sono circa 5 milioni e di conseguenza ogni banca segue il proprio piano industriale, le proprie strategie e ne risponde. Solo agli azionisti, quindi. A chi deve rispondere? No, allo Spirito Santo le nostre anime rispondono quotidianamente, però si risponde agli azionisti. Non per so cui lei dice non c'è una linea, uno può essere banca più di sistema o più banca. Ma non ha, senso che io leggo quella che è la Costituzione bancaria italiana, che è il testo unico bancario del 1993, e non c'è un comma dove dice banca di sistema o non banca di sistema. Sono tutte definizioni che uno può adottare o non adottare. Io su questo terreno ma non lei, mi muovo. Ha fatto bene uscire da Telecom Italia o no? O ridurre la quota? Non mi occupo, certamente. Non sono questioni. Io presiedo una associazione, non presiedo una corporazione. La differenza è abissale. Quindi anche su Alitalia lei ha un pensiero guardi, il neutro. Mio pensiero non è neutro, per essere precisi, è di assoluta non ingerenza nelle questioni gestionali dei singoli associati. Ognuno in associazione bancaria è in concorrenza con gli altri associati. Noi ci occupiamo solo di regole, di legge e di vigilanza. Ma come cittadino italiano, insomma, lei auspica che Telecom... Cittadino italiano mi occupo nella sfera privata della mia coscienza. Ma vuole volare l'Italia, Air France, cosa le piace volare? Mi piacerebbe volare con strutture efficienti, più efficienti ancora di quelle in cui debbo volare. Grazie Presidente dell'ABI Antonio Patuelli. Grazie a lei e a tutti loro. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. E lo so, i sogni sono desideri e il nostro resterà un sogno, avete sentito, secondo il mondo bancario tutto non va bene, ma stanno facendo il massimo per l'economia reale. Non so più cosa dirvi, se non darvi appuntamento a domani alle 17 per un'altra puntata di Focus Economia e augurarvi comunque una buona serata. Radio 24, la passione si sente.